L'anno di filosofia a Verrières, 1812-1813, nella canonica di Écouly. In un'ora nella quale avrebbe avuto grande bisogno di lei, Giovanni Maria Vianney perdette la sua povera madre. Ahimè, chi lo avrebbe consolato quaggiù nelle nuove prove? La prima confidente della sua vocazione, la sua dolce difesa presso il padre irritato, non era più. Tuttavia, Matteo Vianney, forse per le ultime raccomandazioni della morente, non si oppose più a che il figlio ritornasse presso Don Baley. Alla canonica di Écouly, nonostante l'atmosfera di tristezza che pesava su tutto, ci fu una grande gioia nel rivederlo. Don Baley non aveva mai disperato in quel provvidenziale ritorno. Ogni sera, nella preghiera, per 16 mesi aveva raccomandato a Dio il suo caro alunno. Una delle sue parrocchiane, non esageratamente devota, rivedendo il giovane, pare abbia esclamato: «Tanto meglio, avremo un pater e un'ave di meno da dire tutte le sere». Ormai il nostro seminarista non abita più presso la zia Humbert, ma nella stessa canonica. I fratelli Laura e il giovane Deschamps erano rientrati nel seminario minore. Per meglio sorvegliare i suoi studi, già troppo deboli e frammentari, Don Baley volle tenersi presso di sé Giovanni Maria Vianney, il quale del resto poteva rendere al suo vecchio maestro buoni servizi, facendo un poco la parte di domestico. Si sarebbe occupato del giardino durante il tempo della ricreazione. In chiesa avrebbe fatto le funzioni di sacrestano e di inserviente. Nelle passeggiate attraverso la campagna avrebbe tenuto compagnia al suo professore e quelle non sarebbero state ore perdute. Giovanni Maria aveva ormai 25 anni. Il tempo stringeva. Don Baley aveva molta fretta di vedere il suo alunno entrare negli ordini sacri. Avendolo fatto aggregare agli studi di retorica dei seminari minori, ottenne di presentarlo alla tonsura il 28 maggio di quello stesso anno 1811. A partire da quella data, Don Vianney, entrato a far parte del clero, era della Chiesa, aveva fatto un passo verso il sacerdozio. Nonostante il dolore per la morte della madre ancora recente, ci fu grande festa in quel giorno alla canonica di Écouly. Sotto la direzione immediata di Don Baley, Giovanni Maria Vianney era a una scuola sicura ma austera. Un vecchio della parrocchia descriveva così il suo parroco. Era un uomo alto, che sembrava tutt'ossa, pareva che non mangiasse nemmeno il necessario. Il discepolo cominciò a condividere la vita penitente del maestro. Andò sempre più imparando a contatto di quel santo uomo. L'austero Don Baley era d'una pietà semplice e tenera. Celebrando la messa, piangeva. L'alunno che gliela serviva, vestito con la cotta bianca, imparò soprattutto da lui il modo di trattare i divini misteri. Quando il Vianney non passava il tempo di ricreazione nel giardino o nella chiesa, volentieri visitava la buona vedova Bibost, che per amore di Dio si occupava del suo corredo e che aveva anch'essa un figlio in seminario. Fu felice di trovare durante il periodo delle vacanze questo amico che nella conversazione lo iniziava al misterioso avvenire nel quale brillava per lui quest'unica meta, l'altare. Era d'un'obbedienza perfetta. Presso Don Baley diceva: «Non ho mai fatto la mia volontà». Le sue letture preferite erano le vite dei santi. Possediamo una lettera da lui scritta a Giacomo Laura, suo antico condiscepolo ad Écouly, al quale chiede il piacere di comperargli dal libraio Ruzan un vecchio volume in folio intitolato Histoire de Père du Désert. Nel seminario minore di Verrières. Nell'ultimo semestre del 1812, Don Baley credette giunto il momento di far seguire al suo alunno 26enne la strafila regolamentare degli studi. Allora, dagli aspiranti al sacerdozio si esigeva un anno di filosofia e 2 anni almeno di teologia. Le difficoltà dei tempi portavano a una certa indulgenza. Giovanni Maria Vianney fu inviato nel seminario minore di Verrières presso Montbrison. Quel centro di studi, fondato nel 1803, non era stato in principio che una semplice scuola presbiterale come quella di Don Ballei a Écouligny. Il parroco Don Perrier aveva disposto il meglio possibile la sua vecchia casa e il solaio per accogliervi alcuni ragazzi del paese che presentavano segni di vocazione. Dio benedisse visibilmente quell'opera. Il loro numero raggiunse presto la cinquantina. Una villa in cattivo stato, molto vicina, fu aggiunta alla canonica per alloggiare i convittori. Quei ragazzi che pagavano 10 franchi al mese erano alloggiati e nutriti là dentro. Come dormitorio avevano un solaio sotto le tegole, al quale salivano per una scala rustica. All'ora dei pasti ognuno si recava in cucina a ritirare il suo pezzo di lardo e un poco di patate. Passavano il tempo di ricreazione raccattando legna secca o riparando l'abitato in rovina. Il cardinale Fesch, facendo di quella scuola presbiterale un piccolo seminario, procurò a Don Perrier un immobile un po' meno malandato. Dal 1807 vi si raccolsero 150 alunni. La casa fiorì tanto bene che nel 1809 raccoglieva 313 allievi. Ma allora lo zelanto parroco di Verrier, esaurito di forze, dovette abbandonare il compito e fu sostituito da Don Baruch, professore di filosofia nel seminario minore dell'Argentière. Nel 1811, per un momento, tutta l'opera parve compromessa. Napoleone aveva avanzato la pretesa di nominare i vescovi senza l'istituzione del Papa. Per assicurarsi l'appoggio dell'Episcopato francese, il 17 giugno l'imperatore si permise di convocare un concilio nazionale nell'arcivescovado di Parigi. Contrariamente ai suoi calcoli, i prelati dichiararono che essi non vedevano come si potesse fare a meno delle bolle pontificie. Le rappresaglie non si fecero attendere. Il 10 luglio un decreto dichiara sciolto il concilio. Il 12, alle ore 3 del mattino, i vescovi di Tournai, di Gand e di Troyes sono catturati di sorpresa nel loro letto e deportati a Vincennes. I seminaristi delle loro diocesi sono chiamati alle armi. Per punire Don Emery, che tenne tresta all'irascibile imperatore, un decreto del 20 ottobre dichiara soppressa la compagnia di San Sulpizio. Un decreto del 15 novembre prescrisse la chiusura dei seminari minori. I loro alunni, se volevano, dovevano seguire i corsi di collegi municipali. Il cardinale di Lione, quantunque non avesse ormai molta influenza sull'imperatore suo nipote, poté ottenere una dilazione di alcuni mesi. Ma alla fine dell'anno scolastico 1812 tutti i seminari minori della diocesi, Verrier, La Roche, Saint-Jodard, L'Argentière, Ali, Messimier, dovettero chiudere i battenti. 1200 alunni erano gettati sulla strada. L'attivo vicario generale Courbon, incaricato specialmente delle case di educazione, riuscì a organizzare esternati nelle città in cui esistevano collegi pubblici. Bourg, Belley, Villefranche, Rohan e Saint-Chamond. Qualcuno aveva proposto al consiglio dell'arcivescovato di collocare quei giovani nelle case di Stato. «No, no», aveva gridato il cardinale, «non voglio dannarmi. Per nulla al mondo sottoporrò i miei figli al regime dell'università. L'università è come una grande caserma, vi si crescono dei soldati mentre io voglio dei preti». Mosso da tali sentimenti, Monsignor Fesch prese una risoluzione decisiva. Riaprì Verrier. Tuttavia la cosa fu tenuta segreta il più possibile. Era relativamente facile in quell'angolo isolato, lontano dalle grandi vie di comunicazione. Del resto, se la polizia avesse svolto un'inchiesta, si poteva senza mentire rispondere che la casa di Verrier era un annesso del seminario maggiore di Sant'Ireneo, troppo stretto quell'anno, per contenervi tutti i futuri ordinandi di Lione. Quindi, nei mesi di ottobre e di novembre 1812, furono dirottati su Verrier i seminaristi che avevano terminato i loro studi classici. Erano ben 200. Là avrebbero fatto un anno di filosofia prima di entrare a Sant'Ireneo. Giovanni Maria Vianney, nonostante il suo misero bagaglio letterario, fu ammesso a seguire quel corso reso obbligatorio. Don Baru divise i filosofi in due sezioni, affidandone una a Don Grange e l'altra a Don Chassel. Ne sarebbero occorsi almeno 4, ma c'era scarsità di maestri. Giovanni Maria fu allievo di Don Chassel. Era il veterano della classe e anche il professore era più giovane di lui. non se ne adombrò, essendo più progredito nell'umiltà, la scienza dei santi, che nelle conoscenze umane. In classe, la prima volta che fu interrogato, non capì la domanda e dovette starsene in silenzio. Da un banco all'altro scoppiarono risa. Dovunque questa è un'età spietata. Il professore, secondo l'usanza dei seminari, interrogava in latino ed il povero filosofo doveva già faticare abbastanza per tradurre la lezione riga per riga sulle pagine del libro. Parecchi dei compagni, è vero, non erano più in gamba di lui. Dalla sezione Chazelle fu staccato un gruppo di 7 allievi, ai quali le lezioni venivano spiegate in francese. Nonostante tutta la sua migliore buona volontà, il santo giovane comprese assai poco di dialettica. Le maggiori, le minori, non lo iniziarono alla logica, di cui, grazie a Dio, il suo buon senso pratico l'aveva già largamente dotato. Quantunque in data 13 giugno 1813, cioè dopo 7 o 8 mesi passati a Verrières, scrivesse al suo caro padre: «Per i miei studi vanno meglio di quanto non potevo pensare». Mentre indubbiamente, in principio, aveva temuto di non capirci proprio nulla, rimase un alunno estremamente debole. Dio voleva che egli, come San Paolo, rimanesse un ignorante nell'arte dell'oratoria, e se non fosse stato tanto modesto, avrebbe potuto rispondere ai primi della sua sezione con le parole di Jacopone da Todi: «Io vi lascio i sillogismi, le parole cavillose, i calcoli sottili. Vi lascio Aristotele con la sua arte e i suoi segreti. L'intelligenza semplice e pura si eleva sola fino al cospetto di Dio senza l'aiuto della filosofia». Poco compreso dagli uomini, Giovanni Maria Vianney si volse infatti verso l'amico eterno, che ascolta i silenzi e accoglie gli intimi sospiri del cuore. Almeno in cappella poteva effondersi e piangere a suo agio. La mamma tanto amata riposava nel piccolo cimitero sul colle di Tardigli. La sentiva più viva e più vicina che mai alla sua anima e le confidava le sue amare preoccupazioni. Con discepoli malevoli lo sbeffeggiavano ed anche gli insegnanti erano avari di incoraggiamenti. A Verrier, confesserà più tardi il santo, ebbi un poco da patire. Si indovina ciò che quelle due parole, un poco, significassero sulle sue labbra, tanto caritatevolmente reticenti. Lunghe visite nella cappella gli davano coraggio. Ora che purtroppo gli manca il cuore della madre, che quacciù nulla può sostituire, la sua devozione alla Santa Vergine diverrà anche più filiale e più tenera. La sua pietà verso di lei lo portò a emettere il voto di schiavitù, col quale si abbandonava completamente a lei. Tuttavia sarebbe un'esagerazione affermare che a Verrier Giovanni Maria Vianney sia stato un perseguitato o un isolato. I più seri e i più ferventi amavano prenderlo a modello, riferisce uno dei suoi vecchi condiscepoli. Ne amavano la compagnia perché egli parlava loro abitualmente di Dio e della Madonna. Fu così amico di Marcellino Champagnat, il futuro fondatore dei Piccoli Fratelli di Maria. Marcellino aveva 23 anni, mentre Giovanni Maria 26 e mezzo. L'età già avanzata, la comunanza della prova, la somiglianza dei gusti e delle virtù li avvicinarono tanto vicendevolmente. A Verrier le abitudini austere dei tempi eroici si erano conservate abbastanza. Quantunque fossero un po' meglio sistemati d'un tempo, il regime era duro, i pasti frugali, il regolamento severo. Giovanni Maria, lungi dal lagnarsene, ne fu contento e non lo si vide una sola volta mancare al dovere. Tuttavia la sua condotta non attirò in modo speciale l'attenzione. Amava tanto l'oscurità, il nascondimento. Nulla porta a credere che egli fosse citato pubblicamente come un modello. Una certa disistima circondava i suoi insuccessi. I suoi voti di fine d'anno vanno visti in questa luce. Lavoro, bene. Scienza, molto debole. Condotta, buona. Carattere, buono. Don Barù, anche se fu un educatore abile, non era obbligato ad essere profeta. Fermandosi alle apparenze, non seppe apprezzare il tesoro che la provvidenza per breve tempo gli affidava. Nel seminario maggiore di Lione, 1813-1814. Le belle vacanze del 1813. Giovanni Maria Vianney a Verrier non era stato molto fortunato. Aveva soltanto sfiorato quella filosofia ispirata a Descartes che vi si insegnava secondo il metodo dell'antica Sorbona e che gli era parsa insipida e fredda. Nel mese di luglio del 1813 fu contento di tornare ad Écully e di ritrovarvi il suo vecchio maestro, che fu pure assai contento di rivederlo. Si comunicarono le loro speranze. La salita verso il sacerdozio era dura, ma la vetta appariva meno lontana. Come si sarebbe respirato meglio lassù? Il ministero delle anime non avrebbe più presentato le aridità della scuola e dei libri. Senza perdere tempo, Don Balley pensò a preparare il suo alunno per il seminario maggiore. Indubbiamente furono le più belle vacanze e le ultime che godette Giovanni Maria Vianney in tutta la sua vita. Il seminario di Sant'Ireneo. Il seminario maggiore di Sant'Ireneo, costruito a Lione in piazza Curapaché, ai piedi della Croce Rossa, dopo essere stato successivamente durante la rivoluzione deposito di armi e ambulanza militare, era stato restituito il 2 novembre 1805 alla sua primitiva destinazione. Era una casa spaziosa a tre piani con bei giardini divisi da un bel viale di tigli. Già da 2 anni i sulpiziani non avevano più la direzione dello stabile. Il decreto del 26 dicembre 1811, che toglieva ai degni figli dell'Ollier il governo di tutti i seminari, li aveva cacciati da Lione. Nonostante le proteste e le suppliche del cardinal Fesch, Napoleone era rimasto inflessibile con lui come con tutti gli altri vescovi. I sulpiziani furono sostituiti da alcuni giovani sacerdoti diocesani, ma i cuori, si dice, erano rimasti attaccati a quelli. Ci si lamentava che i nuovi direttori fossero troppo giovani, che non avessero abbastanza esperienza. Li avevano conosciuti sui banchi della scuola, ma la loro giovane età non impediva che fossero tutti uomini di valore. Il nuovo superiore era Don Gardet. Ordinato sacerdote durante il terrore, era stato arrestato e imprigionato nel carcere di Rochefort. Era di una pietà profonda, ma forse perché aveva molto sofferto, mostrava una certa aria rude e severa e ci teneva all'osservanza rigorosa della regola. Direttore del seminario era l'ottimo e distinto reverendo della Croix d'Azolette, futuro arcivescovo d'Auch. Fungeva da economo il modesto Don Mened. Professore di Sacra Scrittura e di liturgia era Don Miolan, giovane sacerdote di 25 anni, affabile e gentile, che diverrà arcivescovo di Tolosa. Don Choleton e Don Catet, da poco usciti dal seminario di San Sulpizio di Parigi, insegnavano l'uno dogmatica, l'altro morale. Questi professori possedevano una scienza reale ed anche distinta. Per formare i seminaristi lionesi alla scienza e alla virtù, si sforzarono di continuare le tradizioni sulpiziane. Giovanni Maria Vianney, che all'apertura delle scuole in ottobre venne a porsi sotto la loro direzione, per alcuni mesi sarebbe stato loro alunno. Egli trovò fra i suoi condiscepoli Marcellino Champagnat, che l'aveva seguito al Sant'Ireneo, Giovanni Claudio Colin, che fonderà la Società di Maria, Ferdinando Donnet, che morrà all'età di 87 anni, cardinale arcivescovo di Bordeaux. Alcune prescrizioni della regola dovettero un poco imbarazzare il nostro seminarista e non sappiamo come se la sia cavata. Sua Eminenza, scrive Don Lionnet, non cessava di raccomandare quando si recava in seminario il decoro ecclesiastico. Voleva che i suoi sacerdoti fossero sempre distinti negli abiti e nel contegno esteriore. Prescrisse perciò l'uso della polvere per capelli e delle fibbie alle scarpe. Avrebbe anche desiderato che i seminaristi di Lione portassero, come quelli di Parigi, il mantello lungo quando uscivano in città. Una virtù ammirabile. I corsi dell'anno scolastico 1810-1814 iniziarono dopo i tradizionali esercizi spirituali un po' prima della festa dei Santi. Un futuro canonico teologo di Belley, Don Giovanni Agostino Panzut, che quell'anno terminava il suo corso di teologia, aveva conservato anche nella sua vecchiaia il ricordo di quel novellino, la cui fisionomia l'aveva colpita, perché Giovanni Maria Vianney, nonostante il suo già grande amore per il silenzio e il nascondimento, non poteva passare inavvertito. A 27 anni aveva un volto d'asceta. Il raccoglimento, la modestia, la penitenza, l'abnegazione di sé, portata fino alla macerazione, trasparivano da tutta la sua persona. Se i 250 seminaristi che erano entrati con lui fossero stati altrettanti Don Vianney, La casa di Sant'Ireneo avrebbe dato l'immagine perfetta durante le passeggiate e le ricreazioni di un convento di trappisti. Ma ci furono testimoni ancora più assidui di un'esistenza tanto edificante. Sant'Ireneo non poteva ospitare tutti gli allievi e perciò nelle camere più spaziose se ne dovettero sistemare parecchi insieme. Così Giovanni Maria Vianney ebbe come compagni di camera, insieme con Don Besacier, che non aveva mai incontrato prima, Don Decla e Don Duplay, che conosceva dal tempo di Verrier. Era d'una perfetta regolarità, racconta il Besacier. Dalla camera dove eravamo insieme bastava far due passi per vedere sfilare un reggimento svizzero al servizio della Francia e ascoltare la bella fanfara. Parecchi seminaristi cedevano alla tentazione di guardare e di stare ad ascoltare. Il Vianney, non mi ricordo, abbia mai sgarrato una volta. Più tardi, Don Decla, divenuto religioso marista, diceva di lui al nipote di Don Stefano Dubois: «Io l'ho conosciuto bene un tempo, è un santo». Si potrebbe credere che il Vianney tendesse a distinguersi dagli altri. Al contrario, nulla di straordinario nella sua condotta, era di una grande semplicità. Una mente ribelle. Sfortunatamente, al dire di Don Besagier, il suo risultato negli studi era nullo, perché non capiva abbastanza bene il latino. Parecchie volte gli ho dato spiegazioni che peraltro non capiva, nonostante ciò sembrava che si applicasse continuamente. Sapevamo tutti, ha raccontato Don Panzut, che il Vianney non aveva fatto studi regolari e nessuno di noi era sorpreso per suo scarso successo. Se più tardi ha operato veri prodigi nella direzione delle anime, lo dovette alla sua applicazione perseverante e soprattutto alle grazie di Dio di cui fu visibilmente colmato. Il superiore, Don Gardet, certamente si interessò di quel vecchio seminarista di cui conosceva la pietà e l'applicazione eroica. Gli diede come ripetitore Giovanni Duplay, uno dei primi della classe. Meno impressionato dal condiscepolo che lo interrogava in francese, Giovanni Maria dava in francese risposte giuste e piene di buonsenso. Uno dei professori, Don Miolan, vedendolo tanto indietro negli studi, ebbe la carità di dargli alcune lezioni. Gli spiegò la teologia con un manuale scritto in francese e redatto molto chiaramente il Rituel de Toulon. Grazie a questo insegnamento meglio adattato, il Vianney avrebbe potuto imparare in seminario le nozioni sufficienti. Ma siccome il latino era la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami, per il nostro studente tardivo i corsi pubblici rimasero lettera morta. Dopo aver provato più volte, i professori omisero di interrogarlo. Quanto dovette patire per la inutilità dei suoi sforzi. Nessuno più di lui a Sant'Ireneo desiderava il sacerdozio e nessuno ne sembrava più lontano. Ma quale spaventosa pena, quale strazio, allorché dopo 5 o 6 mesi i direttori, disperando che potesse riuscire, lo invitarono a ritirarsi. Dimesso, lui, le cui reliquie vedranno un giorno inginocchiato sotto la cupola di San Pietro il sommo pontefice che le profumerà d'incenso, fu la prova più crudele della sua vita. Più tardi parlerà qualche volta delle sue miserie e delle sue difficoltà. Mai, per quanto si sappia, fece allusione a questo rinvio. Molti suoi condiscepoli furono assai afflitti nel vederlo lasciare il seminario maggiore. Lo sfortunato, da parte sua, accolse la sentenza con rassegnazione senza lamenti. 50 anni più tardi, uno dei suoi confidenti di quel tempo, il cardinale Donnet, ci dirà: «Il ricordo della sua umiltà e del buon senso delle parole che mi fu dato di scambiare con lui in quella circostanza è rimasto profondamente scolpito nel mio cuore». Che fare? La porta del seminario gli era chiusa. Sarebbe tornato alla vita del mondo, lui che desiderava soltanto darsi a Dio? Allora Giovanni Maria Vianney si ricordò d'un suo compagno d'infanzia, Giovanni Dumont, che il 27 novembre dell'anno precedente aveva preso l'abito dei fratelli nel noviziato lionese del Petit Collège. Un nuovo sogno sbocciò nell'anima del povero seminarista abbandonato. Veste per veste avrebbe scambiato la sua con quella del fratello laico. Senza neppur recarsi da Don Balley per prenderne consiglio, uscì da Sant'Ireneo e andò a battere alla porta del Petit Collège, non lontano dalla primaziale di San Giovanni. «Non so abbastanza latino per diventare prete», confidò al suo amico Giovanni Dumont, divenuto fratel Gerardo. «Verrò qui per diventare fratello». Un esame nella canonica di Écully. Ritornò per alcuni giorni, pensava alla canonica di Écully. Don Balleï lo abbracciò, se lo strinse al cuore piangente, ascoltò le sue confidenze, quindi parlò. Disse di nuovo al suo protetto che Dio lo aveva scelto per servire l'altare. «Scrivi al tuo amico di Lione», aggiunse, «di non dir nulla a nessuno perché io voglio che tu continui i tuoi studi». Bisognava quindi tentare almeno un ultimo sforzo. Maestro e discepolo, dopo aver pregato insieme, si curvarono nuovamente sui libri. Fu ripreso lo studio del Rituel de Toulon. Don Balleï usò ora il francese, ora il latino. Giovanni Maria Vianney doveva saper tradurre nella lingua della Chiesa almeno le nozioni essenziali. Per il resto, lo Spirito Santo che abitava in quell'anima vi avrebbe colmato le lacune, supplito alle insufficienze. Ma come sarebbe accaduto ciò? L'interessato lo ignorava. Qualche volta ne provava una sofferenza molto viva. Fortunatamente era sostenuto dalla sua pietà e Dio stesso gli veniva in aiuto. «Quando studiavo», racconterà più tardi, «ero accasciato dal dolore. Non sapevo più che fare. Vedo ancora la canonica di Écully. Passavo vicino alla casa della Bibost quando udii una voce come se mi parlasse all'orecchio che mi disse: "Stai tranquillo, un giorno tu sarai prete". Intanto si avvicinava il tempo delle ordinazioni. Poiché l'esame canonico si teneva verso la fine di maggio, Don Balleï provò a presentare il suo alunno. La diocesi aveva sempre bisogno di sacerdoti. Il candidato aveva 29 anni, aveva ricevuto la tonsura da 3 anni ed era tempo, a meno di non disperare di lui, che ricevesse almeno gli ordini minori. Furono ragioni che parvero sufficienti per non tardare di più. Appena 3 mesi dopo la sua partenza dal seminario, il Vianney ricomparve quindi tra i suoi vecchi compagni, felici di rivederlo. Seduto in un ultimo banco, aspettava il suo turno. Entrato nella stanza degli esami, vide che a presiedere la commissione era il canonico Bochard, vicario generale. La commissione era composta dalle menti più colte ed elette della diocesi di Lione. Quando il candidato, che era già preoccupato, sentì pronunciare il suo nome, si turbò ancora di più, capì male le domande che gli venivano rivolte in latino, si imbrogliò e rispose in modo incompleto. Gli esaminatori rimasero perplessi. Conoscevano la scienza e il buon senso di Don Balleï, non ignoravano l'elogio che egli aveva fatto dell'energia e della pietà di quell'alunno. Che dovevano fare? Rimandare senz'altro quel povero seminarista che mostrava tanta buona volontà o soltanto prolungarne l'attesa? Si preferì declinare ogni responsabilità in un caso tanto imbarazzante. Il Vianney era libero di chiedere l'ammissione in un'altra diocesi, dato e non concesso che ci fosse un vescovo disposto ad accoglierlo. Giovanni Maria la sera stessa se ne tornò ad Écully. Don Balleï vede il pericolo. L'indomani corse a Lione. Si consigliò dapprima con il sacerdote che aveva confessato a Giovanni Maria Vianney per la prima volta e gli aveva dato la prima comunione. Don Grobot, divenuto segretario generale dell'arcivescovado, accompagnò Don Balleï nell'ufficio del vicario generale, che il giorno innanzi aveva interrogato Giovanni Maria. Il parroco di Écully ripeté l'elogio del suo allievo ed è che era forse il meno istruito, ma che sicuramente era uno dei più virtuosi dei seminaristi lionesi. Don Grobot stesso aggiunse preziosi ricordi. Monsignor Bochard si lasciò convincere e promise di ristudiare la cosa. Di più, dietro istanza di Don Balleï, accettò di recarsi il giorno dopo alla canonica di Écully e di portare con sé il superiore del seminario maggiore. Tutti e due avrebbero riveduto nell'intimità il candidato sfortunato. Giovanni Maria Vianney, rassicurato per questa benevolenza, rispose molto bene alle domande che gli furono poste e si rimase assai soddisfatti delle sue risposte. Così si esprime Don Betem, canonico di San Giovanni in Lione, vecchio amico di Don Balleï, che dopo la morte di quest'ultimo doveva divenire per alcune settimane il confessore del nostro santo. Monsignor Bochard ripartì quindi da Écully favorevolmente impressionato, ma non toccava a lui prendere una decisione definitiva. La decisione del vicario generale Courbon. Dopo la sanguinosa battaglia di Lipsia, 20 ottobre 1813, russi, austriaci, tedeschi, svedesi, inglesi, spagnoli coalizzati avevano invaso la Francia. L'11 aprile seguente Napoleone, vinto, firmava la sua abdicazione. Sua madre e suo zio cardinale avevano trovato rifugio presso il santo pontefice Pio VII. Nell'assenza di sua eminenza, il primo dei vicari generali, Monsignor Courbon, aveva la direzione dell'arcidiocesi di Lione. Quindi spettava a lui pronunciarsi sulla sorte del Vianney. Non si mancò di fargli notare che l'alunno di Don Balley non capiva bene che la lingua materna e che non si riusciva a fargli imparare il latino. Il vicario generale si sentì portato all'indulgenza. Del resto, non si comportava così anche il suo arcivescovo? Meno di 2 anni prima, nel Natale del 1812, non aveva chiamato in massa per sottrarli alla coscrizione tutti i numerosi alunni del primo anno di teologia e degli altri anni che non erano ancora ordinati suddiaconi? Monsignor Courbon, semplice e bonario, si accontentò di chiedere: «Il Vianney è pio? Ha devozione alla Madonna? Sa dire il rosario?» «Oh sì, per questo è un modello di pietà». «Un modello di pietà? Bene, io lo ordino. La grazia di Dio farà il resto». Mai il Courbon fu meglio ispirato.